Il sole non mi scalda come te, un po' di sole non mi basta più. Nessuno mai una mano mi darà per vivere, per vivere. Il mondo è il mondo è vivo, ma per me che ho tanto freddo ci vorresti tu per vivere. Se tu mi se tu mi vuoi. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna. Sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il gli occhi tuoi, ci siamo solo noi. Un sorriso e poi non so più dove sei. No, no, oh, la farfalla impazzita era quasi fra le mie dita. Vola nell'immensità, si allontana. Silenzio, lo so, ascolti la mia voce, ma se ti parlo tu non mi senti più. Si è posata, io vedo le sue ali colorate, è ferma, è molto vicina, allungo la mano, la prendo. Inventa quello che vuoi per farci ridere un po'. Inventa pure, dici, dici Pepe. Quello che adesso dirò per farvi ridere un po' non è invenzione, ma è la verità. Da quando il giorno non è più giorno, da quando il sole non è più sole, da quando l'alba si è fatta strana, ho perduto la tramontana. Da quando il vento mi ha sussurrato che lei va in giro col carro armato, da quando ho visto che fa l'indiana, ho perduto la tramontana. L'ho perduta seguendo lei. E adesso cosa dirai per farci ridere un po'? Che cosa inventi? Dici, dici Pepe. Quello che adesso dirò per farvi ridere un po' non è invenzione, ma è la verità. Da quando Eva mangiò la mela ha combinato dei grossi guai, ma si aspettava una settimana, non perdeva la tramontana. Invece io sono qui che soffro, sono qui che lotto tra il bene e il male, e per il filo di quella lana ho perduto la tramontana. L'ho perduta seguendo lei. E adesso cosa dirai per farci ridere un po'? Che cosa inventi? Dici Pepe. Quello che adesso dirò per farvi ridere un po' non è invenzione, ma è la verità. Secondo voi mi prendete in giro, conosco tutte le vostre donne, e non è detto che per Giuliana io non perda la tramontana. Mi piacciono nere, mi piacciono bionde, mi piacciono tutte le donne al mondo, e per il pizzo di una sottana perdo sempre la tramontana. L'ho perduta e la perderò. Alle! Mi piacciono bionde, mi piacciono tutte le donne al mondo, e per il pizzo di una sottana perdo sempre la tramontana. L'ho perduta e la perderò. Non vedere nei tuoi, aver la bocca e non parlare con te, aver l'amore che non vuoi più da me. Che vale per me dimenticare se tu paura se non ci sei. Io non cercherò, l'amore è facile, niente può cambiare la solitudine che è dentro di me, che va. Thank you. capirai. Ma il mondo non finisce, la sola siepe che circonda la nostra casa. E non mi capirai. Piangerai, ma non mi puoi fermare, mi hai insegnato tu a camminare ed ora devo andare, devo andare. Mai sentirai una canzone, una canzone che conosci già. La canterà l'uomo che tu non ami più, l'uomo che via stasera andrà, ma che non piangerà. Bartolomeo fa un monotono lavoro che non lo interessa più. Sogna un attimo di gloria. Non lo sogni forse tu? 1111 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferro così. Uffa. 112 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferro così. Pensare che il mio sogno è la poesia. 1113 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferro così. Ma il giorno mio verrà, il mondo si commuoverà, leggerà. Buchi tutti in fila in questo pezzo di ferro così. Uffa. 1115 buchi eccetera eccetera e giorni tutti così. Ma il mio destino è sempre là, ma io